va bene, è strano che non ci sia, non abbia sentito ancora Claudio. Claudio, ma lavoro sì, mio gepitami, non lavorando oggi. Qui in ascolto, vuole sapere tutte le cose nostre. Perché lui ha orecchie di porco, adesso entra. Non si fa pregare lui quando deve entrare, no? E poi lui può entrare anche di prepotenza, non è problema. dai, non essere permaloso, Robertino, o meglio Riccardino. Vuoi sapere delle cose nostre? Intanto non se ne fa niente delle cose nostre. Cosa credi? Che lui sia così, come prezzemolo? No, non è come prezzemolo lui, no. Larino, invece ti volevo chiedere se vuoi dirlo, con quanti gatti stai uscendo? Io? Con pochissimi, 10, 12, dai, per esattezza, più o meno, sono così. E credi che io il massimo che posso uscire in AM sono 20 watt con questo apparecchio? Perché quello è normale, come è uscito dalla fabbrica, Riccardì, è fatto per l'SSB, non per andare in AM. Non è un apparecchio fatto per la M, capito? È stato costruito per l'SSB. Il misto per te, quello che sta a dire, perché ieri ci ha seguito nel canale, non so come abbia fatto. Con 20 watt tu sei uscito, va bene, vuol dire che te l'hanno calibrato a quella potenza, va bene così, che problemi ci sono, va benissimo, dai, arrivi un bel segnale, per cui non c'è problema, Riccardino. Il mio com'è il segnale lì? Dimmi se arrivo almeno Santiago 8, ci arrivo. Già ci arrivi a 9.20 con picchi positivi, faccia 9.25, lo so, ma adesso perché lui sta dicendo che questa apparecchiatura non gli ha tagliato il diodo, che dalla fabbrica usciva con 20 watt in AM, infatti dicono che è originale, infatti questo non è neanche K, è trio. Vuol dire che è così, no? Se ti hanno detto così, vuol dire che è stato bloccato quella potenza. Va bene, comunque va benissimo, che problemi ci sono? Sta arrivando 9.15 qua, modulati, per cui va più che bene, e alla grande. Magari arriva su tutti quei segnali così alti. Va bene, dai, avanti, resta lì. Escono tutti i K così dalla fabbrica. Se tu lo vuoi aprire, poi li devi tagliare dei diodi, devi fare delle operazioni per poterlo usare come lo usano tutti. Ma tu non lo toccare, quello che va benissimo, perché è stato costruito per l'SSB, quello lì, non per modulare qua. Ho capito, sì, no, non tocchi se vuoi il motto di Claudio. Tu non toccare mai niente, tu prima di toccare chiedi a chi ha più esperienza di te, tu non toccare mai niente per non fare danno. E poi rimane così, non c'è bisogno di toccare, cosa devi toccare? Va benissimo così, per cui ultimamente bene, perciò prima chiedi sempre, prima di fare un qualsiasi, anche se ritieni di saperlo, però non sei sicuro, magari chiedi sempre prima di rovinare la radio, ok? E poi quello è raro, è un trio, è un peccato a toccare, capito? Non è neanche, è uno di quei primi antichi trio Kenwood. Portato lei! Non mi sovra modulare, se sto parlando non mi sovramoduli. Sovramodulato ti ho, scusa se ti ho sovramodulato, non me ne sono accorto, Riccardo. No, niente. Stavo pensando una cosa, ma ti spiego, ho ordinato 2 MB+5. Com'è che una ha la scatola più grande della ZG e un'altra più piccola? Non capisco questa cosa. Magari sono serie diverse. Non lo so. Perché mi hai chiesto 2, Riccardì? Per 2 baracchini? No, ne ho chiesto 2 perché all'inizio dovevo prendere quello di Fusaro e l'ho riportato. E intanto me ne serviva una tavola e così l'ho comprato su Radio System, un MB+5. E così intanto che l'avevo comprato me ne ha portato uno anche Fusaro. E quindi ne ho 2. Anche io ne ho due di MB più 4. Uno è in scatola, non so cosa va a mini. Boh. Perché questo va bene qua. In campagna anche lui. In campagna dovrei buscare un altro baracchino, o chi si è omologato mi fa schifo pure a usarlo. Sì, vabbè, già sono sempre comodi due, là. Già quando sempre comodità, abbastanza comodi due, avendo due, non si sa mai, va in TT1 nel frattempo che stai riparando, hai pronto l'altro, perciò non andiamo bene. Ah, ecco, allora Fusaro, finalmente ti ha portato il microfono che avevi comprato prima, o Riccardi? Sì, sì, me l'ha comprato e non vuoi zecca, meno male, questa non ha niente. Non faccio nome in frequenza, però so chi l'ha rovinato questo microfono. Ok. Scommetto, Riccardi, che quello che hai comprato da fuori, dal Radio System, l'hai pagato di meno di quanto l'hai pagato a Sassari. No, ma questa è magia nera, come fai a saperlo? Perché lo so che costa così di meno, magari con i soldi del trasporto più o meno si avvicina alla stessa cifra di quelli di Sassari, d'accordo, quello sì, però come prezzo base sicuramente l'hai pagato di meno. Io ti dico, allora ti dico 65 come costo base, poi magari se ti hanno messo anche il trasporto avrei superato anche 70, questo sì, confermi che ho ragione. 65 spedizione gratuita. Te l'ho detto, no? Ma quanto ne so, te ne immagini? Mannaggia, chissà perché, vabbè, comunque. Anche Natalino me ne sa tanto come me, cosa ti credi? Vai Natalino. Eia, tu pensa, questo io l'ho pagato meno di tutti, perché tu non lo trovi per meno di 200 e rotti, 190, 199, io lo sai quanto l'ho pagato, 162 e le spese di spedizione gratuite, l'ho pagato così. L'ho pagato meno di tutti, ed è nuovo. Oh Giulio! Dimmi Riccardi! Natalino se ne intenderà, però rimane sempre un cuocomane a vita. Non è possibile, non è possibile. Sì, Natalino, lo so, c'è anche una tarita che ne vuole 176, c'è uno che ne vuole 206, ce n'è un altro che ne vuole 212, è a seconda del negozio, non lo sai com'è, no? Il commercio è così, però la radio è sempre quella, per cui va bene, hai fatto bene a comprarla dove costava di meno. Magari, aspetta, ti dico anche la notte l'hai presa, aspetta, Media Globe, scommetto che l'hai presa la Media Globe o Natalino. Adesso non me lo ricordo, comunque non è Media Globe, da Amazon l'ho preso, la ditta non me la ricordo però. Grazie anche a te. Ma vabbè, va bene così. Tanto le spese erano gratuite, eppure l'ho pagato 162 in effetti, e spiccioli. Buongiorno, l'ho pagato meno di tutti gli altri, perché il più poco mi sembra che era 176, una cosa del genere. L'ho visto di tanti prezzi, e ce ne sono ancora tre. Ne aveva quattro, questo qui, e uno l'ha dato a me, e quindi ce ne sono tre disponibili. Ma andare così, dai, no problem, già mi è andata bene. C'ha addirittura della plastica adesiva sopra i tappi, quella non l'ho tolta perché ci ho messo il rosmetro sopra. E sopra quello, quell'affare di plastica adesiva che c'è, ci ho messo un affare di occhiali, no? E sopra ci ho messo il rosmetro, così non lo rovina, diciamo così. Quel rosmetro bene va. L'hai visto quel rosmetro oggi? Va benissimo, va benissimo. Anch'io lo devo prendere quello così. Quello è professionale, poi tra l'altro. E poi è abbastanza ampio come quadrante e dunque si legge molto bene, non c'è problema. Va benissimo quello. 70 euro mi sembra, 75, boh, una cosa del genere. Molto bello, SX200. Sì, va bene, hai fatto bene a prendere quello, Natali, va benissimo, è professionale quello. dovrebbe essere anche abbastanza preciso, sì, un minimo di percentuale e in più o in meno c'è sempre, ma in tutti però, a meno che non compri un rosmetro da 300-400 euro, allora può darsi che sia veramente preciso al 100%, però quello va più che bene. Io quando vedo il video su YouTube eccetera, vedo molto ma molto spesso appunto quel tipo di rosmetro e wattmetro, perché va bene, e poi fa da 1,8 fino a 200 mi sembra, perciò a Puglia fa anche il oltre a fare l'HF della 27 fa anche fa tutti i V, sì, no, perché V è 144, quella arriva a 200 e fa anche il V Natalì. Sì, lo so, costa 80 e rotti, altro che, però quello che mi dispiace di più è quello che mi hanno sequestrato, perché non era marcato CE, 150 euro buttava isso, un dive ad aghi incrociati, era bellissimo. Anche quello è ultimo, infatti sono, diciamo, i migliori, fra quello e quello ad aghi incrociati sono i migliori, non come quelli letagino che fa degli fifu, per carità, ui. Io ne ho due sono ZG, l'altro è uno da macchina, è uno piccolino da macchina, ma quello è un giocattolo e devo dire che funziona benissimo, perlomeno stando alle misure che mi dà, e né più né meno come quei due grandi ZG che ho, che poi tra l'altro quello ZG uno è un accordatore antenna, altri della verità sono tutti e due anche accordatori antenna, però c'è quello che trasmette 1000, quello a suo tempo, allora costava roba di 120 mila franchi, se ricordo bene, non era poco, però secondo me non è un grandissimo rosmetro, sì, diciamo che è un buon accordatore, quello già ti aiuta in caso di necessità e non c'è dubbio. Va bene, avanti. Roberti, tu che rosmetro hai? Di rosmetro ne ho diversi, ho quelli più portatili con l'antennino, oppure ho tipo il TM1000 e l'HP1000, e poi ho degli altri rosmetri, aspetta, non per spiegare, sono quelli che si mette anche l'antennino, piccolini, compatti. Ah, è quello piccolino nero, sì, FD eccetera eccetera, quello lì è anche misuratore di campo, quello è misuratore di campo, è anche Robertino, non è solamente il rosmetro, è anche un misuratore di campo, tu non lo sai cos'è, te lo spiego. Spiega, avanti. Allora, tu quello, anche staccato dal baracchino, prendi quello lì e metti sulla sua scala adatta, FDV mi sembra, se ricordo bene, adesso non mi ricordo più com'era quella sigla, e ci metti l'antennino. Se lo metti anche a distanza massima, proprio esagerando, di 11 metri dal baracchino, come schiacci la portante, la lancetta ti funziona lo stesso e ti dà la potenza praticamente della tua emissione di RF. Quello lì è misuratore di campo, oltre a essere rosmetro è anche misuratore di campo. Ah, ecco perché ha l'antennino. Certo, ha l'antennino, provatelo, te lo metti anche vicino se vuoi, però non volevi mettere mai più lontano di una lunghezza d'onda relativa alla frequenza che stai usando, che poi tra l'altro è solo questa la frequenza che devi usare. Se trova la frequenza, la lunghezza d'onda al massimo è 11 metri e alcuni centimetri, tu non lo metti più lontano di 11 metri e quando schiacci la portante quello ti dà il valore della tua emissione di radio di RF. Mi sono spiegato? Sì, ti sei spiegato, grazie. Proverò. Vabbè, dai. Se è quello con l'antennino è così, quindi sicuro, però devi cambiare la scala, non mettere SVR, no? Devi mettere su FD, non mi ricordo, l'altra scala, insomma, dai. Ok, dato un tasto, giro il tasto e deve funzionare con quello. Avanti, Natalì. È ancora, ti immaginate, buonissima, col misuratore di campo. Che non lascia io ne ho un altro piccolo lo stesso, beh lo sai che è giusto come quello grande dell'Alberchet, piccolino È bellino, funziona bene. Nella cassa comunale? Sì, che funziona bene, anche se è piccolino, quello della macchina, Natali, stai dicendo, io ce l'ho, quello piccolino, quello della macchina, cosa sarà? 7-8 centimetri, e questo va bene, 8 centimetri saranno 8 per 6,5, 7 e alto saranno 4-5 centimetri. Sì, anche quello della macchina, no, funziona bene, altro che se funziona bene, sino a 101 watt funziona bene, Natale. Addirittura ne ha uno nuovo. Con la più grande Marcolino Condor. Dice che non li misura le stazionali, di quelli del Tagini. Ma quelli del Tagini per conto mio sono scadentissimi. Tu hai un commutatore d'antenna, la fa vedere moltissimo, perché la ZG è proprio una vergogna. Ho una commutatore d'antenna a quattro uscite, Natali. Ma per carità, pensa che ce l'ho messo da parte, che non mi ricordo nemmeno, forse ce l'ho buttato, boh. Ma era nuovo di zecca, non funziona, non chiude, insomma, in poche parole. E ce l'ho anche io, quello lì in campagna dovrei averlo, quella a quattro uscite che stai dicendo tu. Qua ne è uno di quelli 01, non so se è della Daifa, però è tutta un'altra cosa. CO201 si chiama. Quello della Daifa è CO201, quello è buono, quello è ottimo veramente, quello è già di un altro pianeta. Avanti, Riccardi. Ehi, Giulio, scusa se te lo chiedo, ma è su 600% original, adesso hai la Grand Plane originale, non la Grand Plane, la Game Master originale. Sì, adesso ho la originale, sì, la Game Master originale, nonché canna da pesca, chiamiamola così, che poi non è una canna da pesca. Lei master originale. Arrivando più forte, però noi non siamo pescatori. No, io mangio solamente i pesci e basta, senza andare a pescare. Quando vado a pescare vado con i soldi al mercato, li attacco alla canna da pesca e i pesci vendono me i pesci e lui si prende i soldi. Ah, paghi i suoi che tu pecchi sempre, a che l'amo attacchi di 50 euro, usci. Allora, soprattutto per i pulpi, mi sai quanto pescano bene i pulpi quando vai con i soldi, Riccardi? Cazzi, è una meraviglia, c'è quell'Antonio, lo conosci? Sì, o Natali, tu l'avrai conosciuto, Antonio, l'ex CB, pesci vendo, mica è quel banco il migliore di tutti, diciamo, dai, tra virgolette, o perlomeno quello che vende di più, dove c'è la macchinetta con i numeri, o Natali Antonio, già adesso non mi ricordo il nome nativo di frequenza, però si chiama Antonio di nome, che modulava anche la moglie qualche volta. Chi su Capirruglio sei di Zen? No, qui su Tazia in via Lomberto abitava una volta, di fronte al mercato abitava, no, un altro, questo si chiama Antonio, non mi ricordo il nome nativo, forse Gianni Lupio Russo non ricorda come si chiama il nome nativo, tu ce ne stai dicendo Capirruglio, no, che poi qualche volta mollava anche il fratello, io l'ho avuta la via del Begliadu tutto, ma che abbiamo attaccato un lineare e disturbava tutto via le mamili. Figureggiati, inizia tutto qui. Vabbè, comunque altri tempi, dai, no, questo no, questo è un coso, ma vabbè, dai, avanti Riccardi. Vado avanti io, non so cosa dire, bene, vediamo cos'è il discorso, perché mi sono allontanato, che stavo cercando una cassettiera, l'ho fatta vedere a Bobbo, perché me la devo mettere dentro, la stavo cercando su internet, e così non ho capito il discorso. No, stavamo dicendo che quando vado al mercato con i soldi, sai come pesco bene i pulpi, perché c'è anche un pesce vendolo che una volta anche lui faceva il CB. Per cui è poco riconosce bene i soldi, però mi dai pulpi buoni, pulpi me ne dà buoni, la verità, quello sì, sempre freschi me ne dà, soprattutto. Io sono buoni quelli, i pulpi, vai a pescare, ma la canna cos'ha come esca, i soldi, quanto c'è, 50 euro sulla canna? Prego. Avanti il greco. Eccomi qua, buongiorno, scusate la mia assenza, ho piazzato l'Astro 2001, cambia qualcosa? Sì, cambia qualcosina, sì, ciao Antonè, sì, un pochino più forte, 7,5 adesso, va bene, va bene. Dove sei? In altura nelle miei paraggi del campo sportivo, Antonè? No, no, Giulio, stiamo andando all'ascolto, che sono la zona più alta del paese, che si chiama Monte Doris. No, no, la parallela del campo sportivo più vicino, quella che la visiterai. Ci sono centro storico, però poi da questo punto si comincia a salire, quindi non sarò più quasi 430 metri dal livello del mare. Insomma, c'è una zona più aperta e più alta qui. Abbiamo andato anche le foto, sono tutta questa visuale. Poi bisogna vedere se Riccardino anche mi ascolta meglio adesso, perché prima aveva più difficoltà. Sì, adesso ti ascolto meglio. Esatto, ho cambiato antenna, prima c'avevo la Turbo, adesso c'ho la Turbo 2001, sempre della Lenta. Dunque, 2 metri di filo sopra il tetto della macchina. Sì, già migliora qualcosa, dai. Sì, è migliorato Antonio, è migliorato. Diciamo che adesso modulati arriviamo tutto tranquillamente, perciò non c'è problema. Sì, sì, sì. Avanti Natalia, adesso lo senti meglio via ad Antonio Don Barracuda. È musica. Il corso di sofferenza da qui è cominciato, che stavo dicendo, ma se gli faccio la modifica a questo MB più 4, di più dovrebbe amplificare. Ma no, dovrebbe essere così, o la taglia, lo sai, puntilliciare la resistenza, quello sì, facendo quel ponte, ci sono due resistenze, gli metti senza togliere la resistenza, ci metti un filo diretto da un punto all'altro della resistenza, in tutti e due, e dovrebbe funzionare meglio, così si dice, io non lo so, il mio originale però di vecchio stampo, non è il MB più 4 o il mio, quello con l'amierino sopra, lucido, eccetera, eccetera, no, il mio è completamente nero, con la marca scritta in blu, in azzurrino, dai, più che altro, non è proprio blu forte, no, è blu abbastanza chiaro, azzurrino, e i valori del riferimento volume è lo stesso, ci sono delle lineette, ci sono con tracciati di colore anche quelli azzurrino, e il pomello, il pomellino, cioè la manopola è graduata, no? E parte da 0 sino a 50 o 60, anche sì, anche 60 più o meno, e però ripeto, io adesso la sto tenendo a 5 di volume dovrebbe capitare, cioè alla quinta lineetta di riferimento, va bene così. Sì, no, il mio è un po' anzianotto con il microfono, poi il nuovo, sia ben chiaro. Così è andata lì, vai. Perché io ce l'avevo modificato, non gli avevo fatto quei due ponticelli, però li ho tolti e l'ho lasciato originale, è vecchio anche questo. Adesso ho, per esempio, quello che è in scatola, quello lì c'ha lo spinotto a 8, gli avevo fatto, quindi non lo posso attaccare qua perché ha 4. Ah, ho capito. Vabbè, quello perché ce l'hai per l'altro che avevi prima, no? Per l'altra radiolina che avevi prima. E poi la stazione è nata lì, guarda voi ti dica, così lo puoi utilizzare, non posso né l'altro, anche quello, ma tanto una volta devi usare, dici che ti tieni quello che hai adesso, non se ne parla più. Va bene, dai. Avanti di KD. Sì, vado avanti io e non so cosa dire. Ci credete? Ma ci credete che non so cosa dire? Mi sono perso di nuovo. Posso? Certo che puoi, avanti. Ma guarda, voglio far sentire questo a Natalino, per farti capire un po', non capisco per quale motivo ti attivi, ascolta, chi è? Allora, io so che l'ho lasciato originale, è vecchio anche questo, mi abbiamo, secondo te questa è una brutta modulazione, fammi capire. Natalia, rispondi. E cosa rispondo? Che mia moglie mi ha preso la sprovvista, l'incata e ho dovuto abbandonare tutto. Ah, ok, ti ha fatto la registrazione alla radio, ti ha fatto Antonello e te l'ha mandata e tu non l'hai sentita. Adesso rimandagliela Antonello, vai, rimandagliela. Ciao, ascolta Natalia. Secondo te questa è una brutta modulazione? No, non volevo dire quello io, brutta modulazione, che non amplifica più di tanto, perché questo qui è omologato ed è chiuso da dentro, io non lo posso duccare, se no si viene a controllare i noghi, si accorgono che l'apparecchio è toccato, capito là? Invece io l'apparecchio non lo voglio toccare, volevo che amplificasse di più. Non è che amplifichi molto questo MB+4, no? Amplifica molto. Guarda, tieni presente che mi è registrato dal telefonino, poi devo avvicinare la mia microfono, mettici tutte queste concordanze, però scusami, io ti sento bene, tu, io sono con te anche abbastanza amplificato, non è che sta tra le due orecchie, io ti sento veramente chiaro, in macchina, con la scena di macchina, tu sei stato andando così. Sì, vabbè, allora lo lascio così, da. Io volevo che amplificasse un po' di più, ma vabbè, se lo lascio così, dai. No, non è così. Sì, di più, giustamente, tu hai fatto lo più, questo è il mio parere, per carità. Tutto lì, il mio pensiero. Avanti, Giulio. Ok, non c'è bisogno Natalì, non deve modificare niente, che va bene così, cosa, lascialo stare così, tu sei tenuto a tenerlo così, sei obbligato anzi a tenerlo così e tienilo così perché va benissimo, per cui se te lo vado a stare lì a manovrare, a manomettere, resta così che va benissimo, non c'è problema Natalì. Avanti, Riccardi. Ehi, posso chiedertelo due cose, ma sopra il tetto, tranne la Game Master, hai altre antenne, e poi la seconda, perché dollaro? L'hai detto, sulla Game Master cosa hai detto? Non ho capito bene, Riccardi. Stavo dicendo, dopo la Game Master, sul tetto, in campagna, hai altro oppure non hai nient'altro? E la seconda, ma perché il nominativo dollaro? Beh, un attimo dollaro perché è un nome qualsiasi che ho da tantissimi anni, da 40 anni più o meno, non lo so di preciso, anzi di preciso già lo so quando sono entrato, nel 72, però prima mi chiamavo Dribbling, mi chiamavo, e quando facevo gli ex mi chiamavo Golfo Delta, perché quando davo il nominativo Dribbling, che era il titolo di una trasmissione sportiva di calcio eccetera, allora a quel tempo, io avevo messo quel nominativo Dribbling, però quando facevo gli ex tante volte mi scambiavano per Ghibli, no, anziché Dribbling, Ghibli, come quel cartone animato con la cintiera. No, non ho cambiato, ma questo ormai ce l'ho già una quarantina d'anni, questo è un nominativo, dollaro. No, comunque ormai i nominativi lasciano il tempo che trovano, di solito ci chiamiamo sempre per nome. Per cui, tu come nominativo che cosa ti avevi messo? Te l'hai mai messo un nominativo tu? Sì, ho preso quello di Babbo, Alfa 21. Ah già, è vero, sì, Alfa 21, me lo ricordo, tanti anni fa quando modulavo tuo padre, sì. Infatti mi ricordo che io ho la primissima volta che l'avevo sentito a tuo padre, nonostante che il segnale era abbastanza basso allora, a quei tempi, perché avevi l'antenna che avevi, o forse uscivi dalla macchina, non lo so. l'avevo subito riconosciuta la modulazione, subito. Lui se lo ricorderà quando io appunto l'avevo detto, ma sei Giulio, ma sei Sergio? Ha detto sì, sono Sergio, in effetti, ma era 20 anni che non lo sentivo, come minimo, per cui ti puoi immaginare, ma nonostante tutto, dopo tantissimi anni, la memoria c'era sempre per quella voce lì, per cui l'ho scovato subito. Va bene, vai Antonello Barracuda. Cappa, bella domanda che ha fatto, e io mi chiamo 93, all'epoca mi chiamavo Paperino, me lo chiamavo Paperino, poi famiglia è una cosa e l'altro, tutto diciamo per un periodo mollare, poi fortunatamente non ho buttato niente, ho ripreso e mi ha ampliato piano piano la mia stazione, poi da Paperino sono passato a Barracuda, dopo che ho ripreso, e io il Barracuda l'ho preso da un cartone animato che io guardavo da ragazzino, e era il nome di una nave, Barracuda, e io ho preso il riferimento da lì, del mio nome d'arte. Sì, beh, diciamo che inizialmente molte persone avevano un altro nome nativo e che poi è stato cambiato magari per vari motivi. Io addirittura, se per quello, c'è stato un periodo inizialmente che mi chiamavo Mulinex, la marca di una caffettiera, mi sembra che fosse, o di un macinio di caffè, qualcosa del genere. Comunque quello l'ho tenuto pochissimo tempo. Va bene. Purtroppo si cambia anche idea, no? E va bene così. Avanti Natali. Eia. Siamo qua. Il bello di questo microfono è che c'ha anche l'affare per tenere la portante schiacciata. Quando uno è impegnato può tenere il tasto schiacciato. Signor Rock, vorresti dire il blocco? Eia. Invece di tenerlo in mano il microfono, questo è come l'MP5, no? Tu schiacci questo spostato verso destra, sì, e si blocca. Anche io ce l'ho, adesso anche io sto usando il blocco, posso parlare tranquillamente con le mani libere. Però la ricambio lo sento molto amplificato, o sbaglio, un po' compressa la modulazione, non so se sta utilizzando un microfono che è con regolari toni, poi quello che si sbaglio, lo sento così. Sì, diciamo che sono molto amplificato, non lo so, non vedo perché poc'anzi stavo uscendo male, allora mi allontano un pochino così, perché l'ho appoggiato e il microfono vicino, troppo vicino alla bocca, era, magari così mi sente più chiaro, se no posso regolare anche abbassando, non è un problema Antonè. Normalmente è perfetto, forse le monti una piccata, no, così è perfettissimo, appunto. Poi vabbè, nei più quattro giustizie, bene o male, sono più microfoni a tavola economici, ma se sei fortunato di abbinarlo a un apparato e se Dio ti ha dato una tonalità di voce brillante, il gioco è fatto con due soldi, ci sono tante condizioni da mettere in conto. Prima di acquistare un microfono, quindi devi fare delle prove, non è detto che ti puoi comprare il microfono più costoso del mondo, ci siamo, e non è adeguata la capsula alla tua fisica vocale. È sempre un'incognita, bisogna sempre sperimentare. E poi questo qua è il bello della radio. Io ho messo questo perché mi hanno detto che con questo è meglio, che si avvicina di più alla mia voce originale, perché se non metto un altro dice che un pochino con i toni un pochino più alti, ma non perché sia più forte, forse rimane un po' più stridolo magari come modulazione, ma questo dico che mi si addice di più alla voce mia, e allora sto usando questo adesso in questi ultimi giorni, sto usando sempre questo, BMB più 4, Antonio, è per quello. Va bene, dai, avanti Riccardi, tu già mi senti bene comunque Riccardi, ho troppo forte mi sembri. No, oh no, va bene l'ambulazione, ma non ho capito, Barracuda, il signor Barracuda, sta dicendo a me o stava dicendo a te? Ho capito io. No, stavo dicendo anche a te, anche a Giulio che a te. Ah, ho capito, perché ho cambiato tutto, tra apparato e microfono. Sì, adesso sei più... Da. Sì, male che anche prima, mi sembrava più compressa, è molto più chiara, più squillante, ma anche tu c'è una bella tonalità di voce, diciamo, per l'età che hai, cioè, bella leggermente cupa, leggermente grossa, ecco, hai una bella voce nel microfono di te. Giulio, lo sai che l'ho fatto dopo che ho fatto gli ex, tutti, non so perché adesso ha ripreso, mi stanno chiedendo tutti queste L. Lo so, ma sai quante ne ho io? Immaginati un cassetto di un comò, lo sai quanto è grande un comò, no? Ecco, guarda, vedo un cassetto così, ti puoi immaginare, vecchissimi, ma ormai non si usano più, perlomeno la gente non ne spedisce più di cartolina, allora nemmeno io ne spedisco più. Però quanti ne ho io ne ho spedito anche, a quei tempi, allora andava molto di moda scambiarsi la carta QSL, proprio a conferma dell'avvenuto contatto radio, solo per colori si faceva, perché tanta gente magari aveva anche la mania di fare dei bidoni, eccetera, ma poi erano bidoni stupidi, no? Comunque, chi era esperto non era facile fregarlo in quanto a bidoni, perché uno magari era da Sassari e cambiava la voce e pensava di fare il furbo, oppure si trovava in macchina, allora si usava molto il baracchino in macchina, e cosa faceva? Magari in compagnia anche di qualche amico, o lui parlava e l'amico muoveva l'antenna della macchina, allora creava un certo sistema di QSB e sembrava che fosse magari qualcuno parlando lontano con la voce truccata, invece non era vero, e allora era per quello anche che si faceva lo scambio di carta QSL o Riccardi, proprio per confermare l'avvenuto contatto radio, ecco tutto lì. Poi Natalino già te lo può spiegare ulteriormente. Avanti Natalino. Io avevo trovato un programma addirittura per il computer che me le stampavo col computer le QSL, infatti qualcuna ce l'ho ancora. No, ma infatti adesso io le ho mandate via posta, non si manda più, dico via posta elettronica, email, non se ne manda più via posta, va alle poste, no. E adesso via posta elettronica li manda. Sì, in effetti è così, adesso si mandano tutti quanti via posta elettronica, è vero, hai ragione, ma io siccome non uso il computer per fare queste cose su Facebook, eccetera, io non ci sono, per cui non lo faccio nemmeno, anche se il computer lo seguo per altre cose, per vedere altre cose, ma non per andare su Facebook, assolutamente no. Va bene, dai. Avanti Antonello Barracuda. Che volevo dire? Non so se tutti ricordano, ma penso di sì, un vecchio palmare Arnold, non so se ti ricordi, una piccola rotellina in alto, no? Che mi ha alimentato una bacchetta di 1,5 con questo vecchissimo Midland 77-871 con 3 watt e mezzo. La rotellina è tutta al massimo, va bene come durazione abbastanza predicata. Non so se ti ricordi questi microfoni, alta verso la rotellina di amplificazione. Sì, Antonio, va bene, altro che ce l'ho anch'io un palmare così con la rotellina, senza batteria, senza la batteria. La mia è senza la batteria addirittura, va bene, poi ne ho altri con la batteria, questo sì, però quello che ti voglio dire, io ne ho uno della CTE, della marca CTE, e c'è appunto il potenziometro e il microfono non è alimentato con la batteria, però evidentemente è un microfono precompresso e devo dire che va bene lo stesso, aumentandolo con la rotellina lo metti al massimo oppure come vuoi e riesce bene ugualmente, ma in tutte le posizioni, questo sì. Bene, bene, bene, avanti Riccardi. Ehi, vado avanti. Oh, di solito non capisco, sono io ho fatto per un'altra QSL, stavo dicendo, lui mi ha detto la mail, io gli ho ripetuto, mi ha detto sì, è giusta. Oh, poi ho provato e mi dava tutto sbagliato, non capisco perché facendo queste QSL a distanza, bisogna riprovare più volte, perché infatti mi ha detto che non esiste quell'indirizzo. Può essere che quando ti ha dato un indirizzo fasullo, sai, ripeto, ci può essere qualcuno che ancora fa lo spiritoso, ma tu non fregate, falli solamente tramite online le QSL, non seguire, non spendere i soldi a comprare cartoline eccetera, perché ti dirò che questa gente, con la scusa che collegano la Sardegna, quando richiedono una cartolina hanno la pretesa di avere la QSL in sughero, cioè quelle cartoline in sughero sarde eccetera eccetera, che in un certo senso costano anche un pochino, vabbè, non è che uno fallisce perché compra una di quelle cartoline, però non si accontentano di una cartolina panoramica, che so io, tanto per fare un esempio, la fotografia della provincia di Sassari, o che so io, un'altra zona della città, no, vogliono la cartolina in sughero e possibilmente anche quella panoramica, insomma, hanno delle pretese assurde, per così dire. Tu pensa che tempo fa, io parlo di qualche anno fa, esattamente di un 3 anni fa più o meno, questo l'ha voluta, dice mi farebbe veramente piacere, dice guarda che te la pago, non ci sono problemi, ma te vabbè, mandami l'indirizzo della tua ubicazione e io ti mando la cartolina. E sai cosa ho fatto? Mi ha mandato un dollaro, veramente, soldi validi, un dollaro mi ha mandato, non un euro, un dollaro, proprio per mandargli la cartolina in sughero, con Riccardi, ti puoi immaginare che è andata lì, me la stai pagando la cartolina, ma vai al diavolo, vai Riccardi. Lo so, come dire, spagnoli sono un po' così anche, come mi hanno risposto ieri, uno mi ha fatto anche arrabbiare. Prego. Roberto. E perché ti ha fatto arrabbiare, Riccardo? Riccardo, non ti meravigliare, perché si sa, con tutte le persone che entrano in frequenza c'è sempre quello stravagante, quello cretino, ma tu pregate, non rispondere mai male a nessuno, perché l'educazione intanto è sempre di quelli che la usano, non di quelli che la ascoltano, per cui non ti preoccupare, c'è stato Roberto, avanti Roberto. Ehi, se volete io vi faccio la QSL in lamiera e Giulio ce la fa in legno, in coso, ce la fa in radica di noce. Si può anche fare, perché no? Si può anche fare, e te lo ricorderai, no? Questa gente pretendevano sempre la QSL in sughero, se non era in sughero non le piaceva. E poi devo essere sincero, a me personalmente la cartolina in sughero non mi è mai piaciuta. Io preferisco la cartolina panoramica, veramente. Infatti ne ho tantissime, anzi ne ho tanti personali di cartoline, più volte, scambiata più volte, anche a distanza di tempo, senza averlo più collegata con la persona, anche a distanza di qualche anno, mi hanno rimandato la QSL che poi gli ho ricambiato di nuovo, come stai, eccetera, eccetera, e questo è andato bene, spero altrettanto di te, cosa vuoi che ti dica. Va bene, c'è ancora Natalino e poi c'è Antonio Barracuda o Robè, vai per chi vuoi. Ciao a tutti, ciao Natalino, ciao Antonello, ciao Riccardino, sono dovuto uscire per prendere materiale da Bricome, che sta sistemando una cosa, il muratore in officina, per cui ho dovuto andare a prendere, vero mondo oggi, c'è più gente oggi che le altre volte, dai. Comunque tutti salutati, Natalino, Antonello, Riccardino, Giulio, e chi c'è poi? Altri me sono dimenticato. Io sono Robertino per gli amici ormai, non sono più Riccardino, mia mamma è da Bricome, sta comprando l'idropulitrice per la piscina. Eia. Anche la Lido ci sono ogni tanto, a buon prezzo, vanno bene. L'aveva preso mio fratello, ti posso dire funziona più che bene. Eia, no, l'ho presa così perché l'aveva già guardata, che era anche scontata, mi sembra, e la Lido questa settimana non c'era. Qualche volta portano roba interessante a Lido la settimana e le altre volte sono tutte cavolate. Eia, aveva tagliato i volantini perché ci sono i giorni specifici, ogni tanto bisogna andare. Giovedì comunque arriva la roba, o lunedì o giovedì. Vai, Antonio. Eccola, buongiorno, eccomi qua. Stazione mobile, Turbo 2000. Poi volevo dire a Giulio, è stato anche un bel pensierino, lui ci ha mandato la cartolina, lui ci ha preso un dollaro, no, giustamente, Giulio dollaro, io per pensiero anche quello, sbaglio. E poi sì che me l'ha mandato per quel motivo, stavo dicendo, robe poc'anzi, che uno alla volta, un 3 anni fa, ha preteso la cartolina, ha detto mandamela che mi fa preteso, vabbè te la mando, dammi l'indirizzo, mi ha mandato la sua cartolina e poi l'indirizzo, no, perché casella postale non ne aveva, questo qui, e come me, io non ce l'avevo lo stesso, negli anni passati ce l'avevo a Florinas addirittura, perché Sassari, le poste centrali di Sassari, tutte le caselle erano occupate, dunque non erano esaurite, non c'era la possibilità di averne una. E allora l'avevo presa a Florinas e ci andavo tutte le settimane, una volta alla settimana ci andavo per ritirare la posta, soprattutto erano cartoline di radioamatori CB, per cui. E allora stavo dicendo, questo qui che voleva la cartolina in sughero, mi ha mandato un dollaro in soldi validi o robe, che ce l'ho ancora quel dollaro, e mi ha pagato la cartolina e gli ho detto cos'è l'altro mondo, per dirti una roba come la gente alle volte, forse pensava che io non gliela volevo mandare per non spendere i soldi, invece lui allora mi ha mandato un dollaro valido, veramente, vai robe. Non ci avevo pensato, non lo stavo collegando al tuo nominativo, infatti ho detto cacchio, ma non c'è l'euro, come mai la Spagna nell'euro ti mandava verso, ci ho pensato, come ha detto bene Antonello, mi ha fatto ricordare che il tuo nominativo è dollaro, Mari, per farti una sorpresa. Sarà così, che ne so, sarà così. Vabbè, dai, mentre invece andiamo avanti, ieri stavamo facendo contatto con Lecce, l'amico come si chiama? Radio Killer Francesco, quello che noi vediamo sempre nei video, che fa le antenne, che fa modifiche agli apparati, eccetera, eccetera. Quello mi ha fatto il video, mi ha fatto e poi me l'ha mandato non so a chi, il fatto sta che a me poi me l'hanno girato, me l'hanno mandato, forse lo sai, me l'ha mandato a Luca, forse, perché a me me l'ha girato Luca. Mi ha detto, dice, se entri su Facebook ti faccio vedere il video della tua qualità di radio e di segnale anche. Fatto, e vabbè, io non gli ho detto niente, io su Facebook non ci sono, robe. E allora, visto che io non ci sono entrato su Facebook, qualcuno l'ha mandato e a me me l'ha girato Luca Manicomio, nonché soldatino, ecco, questo anche per dirlo a Riccardino, Luca Manicomio, Riccardino, si chiamava una volta soldatino come nominativo, vabbè, dopo commenti. Per dirti, no, devo dire, se vuoi te lo giro, te lo faccio anche vedere mio, Roberto, dopo se vuoi te lo giro, perché c'è ancora la registrazione. Avanti, Nathalie, tu sei un attimo in parcheggio, scusa, vai. E innanzitutto saluto Roberto per rientrato. Volevo farvi sentire l'apparato omologato, quel Polmar col microfono suo originale, tanto mi basta girare il commutatore e ve lo faccio sentire. Fai la pena, non c'è problema. Giulio, già me l'hai mandato l'altro giorno, è bella, un bel ricordo, sì, te l'ho conservato, che è interessante. Sì, ecco, fin quando non lo cancella away, il telefono, perché dopo una trentina di giorni la cosa qui sparisce da solo, qualsiasi messaggio che ti mandano sparisce da solo, perlomeno nel mio telefonino, così poi se c'è qualcosa che te lo blocca per sempre, questo non lo so, non te lo so dire, però so solo che le fotografie dopo un certo periodo di tempo ti spariscono, intanto cominciano a diventare come negative, no? Allora a quel punto lì non si vedono più, allora le cancello, cosa ne posso preoccuparti così, i giga del telefonino, non ne vale la pena. Va bene, avanti Riccardi, poi fai girare per Antonello, non ci siamo dimenticati di te, mio Antonello, vai Riccardi. Avanti io, volevo chiedere a Roberto, comunque lo salutavo, volevo dire, ma vero, c'è presente l'attacco delle cuffie? Sì, e quindi? Se tu conosci un apparecchio che un microfono da base che si può attaccare lì, perché la stazione base, il NASA 23, praticamente il microfono si attacca dove ci sono le cuffie, non si attacca dove c'è il 4 pin. No, aspetta un attimino, non confondiamo. Una è l'uscita delle cuffie, che è out, l'altra è in. Ci sono dei vecchi apparati, insomma, cose, diciamo, apparecchi alicati vecchissimi, diciamo anni 60, che utilizzavano il jack diretto per attaccare il microfono, come un attacco di cuffia, però sono due cose diverse. Attenzione, non si dire il microfono dove c'è il coso delle cuffie, sono due ingressi diversi. Però aspettate un attimino, Natalino stava facendo una richiesta di sentire due microfoni, facciamolo riprendere e poi continuiamo il discorso. Avanti Natalino. Guarda, questo è l'omologato, quello formal, con il microfono suo originale, magari Antonello non mi sente neanche. L'hai sentito Natalino? Natalino ci siamo. Sì, casa, ci sono, scusami. Avanti Natalino, scusami. Natale, per vedere se ti ascolta Antonello con quello, io ti ascolto Santiago 7 con quello, quell'altro ti ascolto invece 9 più 5, avanti di nuovo Natale, per vedere se ti ascolta Antonello con quello lì. Antonello, ci sei? Sì, ti ascolto molto più basso come segnale, la radio sinceramente rimasta in aria alta, da parte mia, essendo qui barra mobile nella zona più alta del paese, segnale più basso, con la modulazione non ho trovato molta differenza. Natalia, da 9.20 sei sceso a 9, da me. Radio molto più bassa comunque. Io non lo sentivo neanche Antonello con quello là, e con questo invece lo sento. Natalì, con questo 9.5, con l'altro 7, sì che la differenza è notevolissima, per cui se per non parlare poi del radio, la radio quella là era bassa, questa è proprio bella, bella, bella. Sì. Antonello Barracuda, volevo chiederti, tu lo conosci Vittorio Luniga, carrozziere di Ussi? Antonello? Sì, dimmi Giulio. Ho chiesto se tu conosci Vittorio Luniga, carrozziere di Ussi. Sì, assolutamente sì, lo conosco. Ok, se hai modo di incontrarlo, di vederlo, gli puoi dare i miei saluti per cortesia, ti ringrazio. Volentieri, non c'è nessun problema, te lo ascoltiamo, sì, volentieri, questa settimana tanto fare piccole commissioni in zona e ti faccio un salto, sì, come ti ha già fatto. Ok, grazie Antonello, sì, e ci siamo conosciuti in una maniera un po' particolare, vabbè, siamo diventati amici ad ogni modo, lui tu fai il mio nome e già lui già capisce, non è un problema, Giulio Sedda tu le dici e già lui già capisce, già sa a cosa mi riferisco, sono un annetto più o meno senza vederlo. L'ultima volta che l'ho vista eravamo in un certo QTH per questioni di controlli eccetera. Va bene, vai, avanti dov'è? Una domanda, ma mi sembra te l'ho già fatta la domanda, ma Maurizio col tuo cognome è tuo nipote? Maurizio? No, io ho nipoti che si chiamano Maurizio, non ne ho. Ah, allora è un altro ramo del tuo cognome, dai, che abita nella zona di Ottava questo. No, nessuno nipote o parente che si chiamano Maurizio, no. No, di Maurizio ne ho uno, ma si chiama Pudiche, ma quello è un altro discorso, quello è intanto un uomo grande, ha più o meno, non dico la mia età, ma sicuramente più di te, ne ha metà di anni, ma quello è già un altro discorso. che si Pugile sicuramente l'avrai conosciuto. Sì, quello sì. Aspetta un attimino, una domanda a cosa invece, a cosa, Antonello? Antonello, in che zona sei tu di Us? In questo momento Barra Mobile sono la zona di Ponte Doris, che è la zona più alta del paese. Sarò 360 e minimo sono sui 400-420 metri dal livello del mare. Guardo tutta una panoramica, vedo anche Udine, la Dinara, tutto. La zona più alta del paese. Questa è cosa bella! Ah, verso l'Iterai, sì. No, no, zona Monte Dulis, è la, diciamo, sul lato sinistro di Iterai, però ancora più in alto di Iterai. No, sta arrivando forte, possiamo versare in macchina, se 9 più 15, a me come mi ascolti? Ehi, io lascio perdere, anche a centro del paese, la dura assistenza, adesso sono usato la tutto di lì, prima che avevo la mia vita. Mi ascolto in ogni angolo del paese, se tu devi immaginare, tutto lì. Va bene, successo con tre parti e mezzo dell'apparato e questo microfono fa fare Astral, amplificato con la batteria da 1,5 volte, che non sarà mica accettato. Ecco, il Midland di che c'è tu anche a casa tua, quello portatile, no, a tracolla, tu usato quello? No, sta andando perfettamente, 9.15 arrivi di segnale, molto pulita la radio, ma mi ha amplificata pure molto chiara. Mi sembra che è entrato Gianni doppio rumo, avanti Gianni. Attento Gianni doppio rumo, non sei uscito. Chiamalo Gianni il caldo, vedrai che già ti risponde. Gianni! Sento una ventoletta sotto a te Giulio quando schiacci. Cosa hai detto Robert? Non l'ho capita. Una ventolina si sente sotto, cos'è, il computer o l'alimentatore? L'alimentatore, purtroppo è questa, non riesco, infatti ieri stavo guardando anche il computer per vedere se trovavo un alimentatore di quelli tradizionali a lamelle, con trasformatori a lamelle, e non questi switching, è switching questo, sai, ed è vicino, abbastanza vicino, dato lo spazio dove ho la stazione, per cui sono costretto a tenere questo. Già ne ho anche un altro di lamella, trasformatore, però purtroppo non bastano gli ampere, non bastano, dunque, perché è solamente di 7 ampere e non mi bastano, 9 di picco e non mi bastano come amperaggio o robe. Diciamo c'è solo la comodità di questi piccolini che tirano potenze esorbitanti in spazi molto limitati, però devono essere raffreddati se no si sciolgono. Ok, vediamo se doppio rumo è rientrato, se no riprendi tu Riccardo. Chi è che ha parlato? Gianni, aiuto! Aspetta, non ho capito niente, c'è qualcuno che non esce di radio, avanti, chi è? Gianni, buttalo via quel microfono! Gianni è che ha un microfono che ogni tanto vuole fare bizze, per cui, va bene, dai, avanti Riccardino! Giulio, ti dispiace visto che tu mi chiami Riccardino se ti chiamo Mario? Ma chiamami come pare piace, che se ne frega! Sempre va bene, e chiamami donna, no, è uguale, chiamami donna, così almeno mi rallegro e mi sento importante come la moneta americana. No, stavo scherzando perché sono andato a spiare il profilo. No, non sono io quello, non sono io, quello lì è mio cugino, si chiama Mario Giulio Sedda, non sono io, quello è un mio cugino, quello è più giovane di me, un paio di anni, 2 anni più giovane di me, 2 anni e mezzo, per esattezza. Ma pensavo fossi tu. No, tu a me non mi trovi lì perché non ci sono. Non ci sono io su Facebook, comunque non mi puoi trovare. Anche se alle volte io spio, però in altri modi, spio in altri modi, io vedo, però non mi faccio vedere. Furbescamente. Avanti Natali. E K, forse era Gianni proprio che non usciva poco fa, perché io ho sentito il bip e a lui, adesso non esce più. Gianni, ci sei? No, era Gianni, però non stavo uscendo. Sì, infatti anche Natalino da poco ha aggiornato la sua presenza su Facebook, ha aggiornato. Io sono lo spione, io vi controllo, però a me me non mi trovate perché non ci sono, Natali. Infatti, no, ma io non ho aggiornato proprio nulla, è sempre il solito. Alberto! Aspetta che forse Gianni, avanti Gianni, riprendi, non è, riprendi il ritardo. Che dica, adesso mi sono dimenticato cosa ti dovevo dire. Ah, ecco, me lo sono ricordato adesso. Dopo posso fare la prova, voglio fare la prova con Luca a parità di watt. E come fai a sapere quanti watt c'ha Luca? O cosa stai uscendo adesso tu, Riccardo, col K? Sì, con il K, però anche lui aveva detto l'ultima volta che stava uscendo con una ventina di watt. Magari qualcosina in più. Ok, ma già nel movimento. Roberto, non ero io, Io sto ascoltando e ho sentito che stai chiamando, ma non ero io. E chi allora? Mi sembrava la tua voce. Chi è che chiama sul canale 10? Pensavo fosse in macchina perché il segnale cambiava, scendeva, boh. Ok, ripeti a Allora,